saprei dirle che il paese da 30.000 patenti nautiche, per avere la patente nautica bisogna avere un'imbarcazione di una certa dimensione, non il gommone. E ci sono un sacco di queste strutture. Io credo che la lotta all'evasione fiscale si va in due direzioni. Da un lato io credo l'accertamento sintetico e il redditometro, l'abbiamo detto, non questo redditometro, aspetteremo di vedere quali saranno concretamente le proposte che ieri ci sono state annunciate dall'Agenzia delle Entrate e sulle quali ci è stato chiesto collaborazione, che non mancheremo di fornire. Quindi un redditometro, come dire, aggiornato ai tempi, adeguato a un'economia che conosce internet, che è quella di un mondo globalizzato, che è nettamente diversa da quella che esisteva agli anni 90 quando lo strumento è stato pensato. Ma l'altra direttrice dovrebbe essere la quartiere tra paradisi fiscali e finanziari, perché non si può ammettere che vi sia opacità nell'informazione, non si può ammettere che un'economia globale abbia regole locali. Queste mi sembrano le due grandi priorità sulle quali la categoria, col contributo delle sue conoscenze, è pronta a fare la sua parte.